Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Una puntata speciale che abbiamo preparato anche in vista del grande Modena Park, l'evento di questa sera dell'immenso Vasco Rossi. Ma parleremo di tanti argomenti oggi. Nella prima ora, ad esempio, avremo un attore amatissimo che questo fine settimana è impegnato in un progetto molto interessante, Luca Zingaretti. Poi le nuove serie TV da non perdere, come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana, ma partiamo subito ovviamente con Vasco. Il momento è arrivata, la grande serata di Modena Park, la grande, grandissima serata di Vasco Rossi. Allora, per sapere quanto è magica questa serata, ci colleghiamo con uno dei nostri amici preferiti del sabato del villaggio, il critico musicale del giornale Paolo Giordano. Ciao Paolo! Eccomi, ciao a te, ciao Marta, ciao a tutti. Allora Paolo, quanto è speciale questa serata? Beh, si capisce anche solo da lontano quanto è speciale questa serata. Io sono a Modena e vedo il palco, vedo la gente, vedo l'affluenza, le straordinarie misure di sicurezza, insomma è qualcosa di direi unico al mondo, ecco, bisogna dirlo anche prima di aver visto e sentito il concerto, è qualcosa di unico al mondo, non c'è niente da dire, un palco che da lontano sembra una cattedrale, tanto è immenso, proprio una cosa, siamo un palazzo di 7-8 piani, veramente, ecco, incredibile. Tu di palchi ne hai visti nella tua carriera? Sì, esatto. A cosa cioè che ordine di grandezza ci puoi suggerire? Come palco? Sì. Ma cioè, come palco direi che sembra veramente un condominio di 7 piani. Quindi non sembra un altro palco che tu abbia mai visto? No, è la cosa più grossa, forse Rock in Rio, forse, ma comunque l'ordine di grandezza è quello. Paolo, cosa rappresenta nella carriera di Vasco Rossi questo Modena Park? Rappresenta qualcosa che è potenzialmente anche pericoloso, perché è una celebrazione meravigliosa che stasera si compie, arriva realmente al proprio apogeo, perché sono tanti mesi che si parla di questo evento, c'è stato tutto lo scandalo del secondary ticketing, c'è stata tutta la lunghissima preparazione anche attraverso i giornali, attraverso i media, attraverso le radio, insomma, di questo evento che celebra 40 anni di carriera di un uomo sul quale soltanto per questo concerto sono stati scritti 3 libri. Il problema è, domani cosa fa Vasco? Secondo te? Cioè, domani potrebbe avere o una bella cosa positiva oppure semplicemente avere un po' più di fatica a trovare dei nuovi stimoli, perché più di così è difficile immaginare per un artista mondiale e soprattutto per un artista italiano. E quando hai fatto il concerto con il più alto numero di paganti della storia, non del secolo oppure della storia, e cosa fai dopo? Quando sei in classifica, quando hai fatto 780 concerti e ne hai fatti 100 negli stadi tutti esauriti, cosa fai? Io a 65 anni, perché poi sì, non stiamo parlando di un ragazzino. E credo che questo potrebbe essere un punto sul quale interrogarsi. E anche se non credo che Vasco comunque abbia mai dato l'impressione di essere uno tranquillo che a un certo punto si rilassa e dice ok, mi godo la tensione. Certo, certo. Però bisogna vedere in che modo cercherà di non godersi la tensione e di fare altre cose. Paolo, in questo modo Vasco Rossi alza l'asticella per tutti. In primis quello che ha torto, ha ragione, secondo me più ha torto si dice essere il suo rivale che Ligabue. Sì, anche secondo me più ha torto e credo che anche i nostri ascoltatori adesso se ci facessero mente locale sarebbero d'accordo con te e con me. È un campionato diverso. È un campionato diverso perché Vasco non ha campionato, invece Ligabue sì. Quindi in un certo senso Vasco è un fuoriquota, è un outsider sempre. Lui è rimasto, sono 40 anni oggi che lui è in carriera in questo modo e oggettivamente bisogna dire che il suo percorso è inimitabile. Insomma, nessuno ha fatto lo stesso percorso, nessuno ha avuto le stesse, non solo soddisfazioni, ma anche le stesse intuizioni di Vasco. E quindi dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della voce, dal punto di vista del repertorio, credo che sia una gara a sé stante, quindi il confronto non ha senso. Ecco. Dal punto, visto che ti ho citato Ligabue, rispetto a Campovolo, quali sono le differenze? Le differenze, al di là della, diciamo, della contabilità, insomma, quindi c'è più gente, il palco è, da quello che pare, da quello che mi pare di capire, molto più grosso e per forza, anche perché c'è più gente, quindi deve essere visibile vagamente anche solo da lontano e poi ci sono più delay, più punti di lei, ci sono più ingressi, c'è più sicurezza, ma questo purtroppo non dipende da Ligabue né dagli spettatori, dal numero di spettatori. Credo che si espiri, diciamo, ciò che si respira negli stadi di Vasco 100 volte di più, centuplicato. C'è una magia, un anche nel personale, in chi insomma fa il servizio negli steward, nel servizio di controllo dell'ingresso, eccetera, c'è più complicità. Ecco, c'è la complicità, credo che sia un po' la chiave di lettura, nel senso che il popolo di Vasco è complice anche se non si è mai visto prima, anche se non si sono mai visti prima, sono già complici. Cioè tutti quelli che ci stanno lavorando si sentono parte dell'evento? Sì. Secondo me sì. Cioè, secondo me sì, nel senso di più di quanto si possono sentire in altri eventi. Questo senz'altro, perché comunque l'idea di essere in un fenomeno unico, non è nello stadio di San Siro oppure nel festival, ma sei in un posto unico che non ci sarà mai più. Vero. Come in teoria era stato Campovolo, che fu presentato come un episodio a sé stante, poi invece si è ripresentato altre volte, e invece questo credo proprio che non ci sarà una serialità di Modena Park. In tanti pensavano che non ce l'avrebbe fatta, molti giornali e giornalisti avevano avanzato qualche dubbio. Sì, avevano avanzato qualche dubbio, poi c'è stata la questione secondary ticketing che ha in qualche modo così, devo dire che questo sia detto senza e al di fuori di qualsiasi retroscena, di qualsiasi malizia, dietro al palco di Vasco Rossi c'era Roberto De Luca di Live Nation, che è stato il promoter, l'organizzatore di... famoso organizzatore, sì, di Vasco, che poi Vasco ha pubblicamente mollato nel momento in cui le Iene fecero quel servizio. Sì. Esatto. Cosa ci faceva lì? Sono curioso. Come la interpreti tu? La interpreto sul fatto che secondo me anche Vasco si è reso conto che in assenza di un reato, in assenza di una fattispecie di reato, si può parlare di etica, ma non di criminalità. Certo. Quindi, cioè, io non sono d'accordo su chi vende il biglietto a 50 volte il costo originale, né su chi lo compra e fa bagarinaggio, ma non ero d'accordo neanche quando c'erano prima i quattro scalzacani davanti agli ingressi di concerti che ti vendevano il biglietto di 10 euro in più. Sì. Ovvio, le cifre, le quantità sono centuplicate, però il concetto rimane lo stesso. Non c'era la legge prima, non c'è neppure ora, e io più che indignarmi oltre a questo mi indigno per la lentezza immane del nostro legislatore, anche della nostra, cioè, del nostro potere esecutivo, del nostro, del Ministero della Cultura, che si dovrebbe occupare di queste cose, invece non lo fa o lo sta facendo molto lentamente. Questo sì, quindi credo che puntare il dito, come sempre, solo nei confronti di una persona, un'organizzazione oppure un'azienda o un artista sia sbagliato. E Paolo, mi sembra andata un po' meglio però in quanto a secondary ticketing, cioè bagarinaggio online per il concerto di Vasco. Io ogni tanto andavo a cercare se c'erano biglietti così per controllare, non ne ho trovati moltissimi di questi famosi biglietti a prezzi. Non ce ne sono stati moltissimi, c'è stato qualche lancio di agenzia nel quale si diceva che i biglietti erano in vendita addirittura con una maggiorazione del 1200%, ma si trattava di pochissimi pagliandi. Quindi effettivamente rispetto ai casi di Coldplay oppure di Lady Gaga, certo non c'è stato paragone da questo punto di vista, sì. Paolo, ti faccio un'ultima domanda, ma che scaletta ci aspettiamo? Che evento ci aspettiamo? Allora, l'evento è che allora io ti racconto quelle che sono state le prove generali. L'ultima prova generale di Vasco è stata dalle 21 alle 0:35. Urca! Quindi sono almeno 3 ore e mezza di concerto. Il concerto è previsto come inizio alle 20:45, quindi si presume che vada avanti almeno fino alle 0:15, che poi siano le 0:20 o le 0:30 è un dettaglio. Sono 3 ore e mezza e ovviamente ci sono decine di pezzi, pezzi che sono anche molto, imprevisti. Che meraviglia, adesso, non si può svelare troppo, ma imprevisti mi mette molta curiosità. Penso che sono pezzi importanti per Vasco, scusate qua c'è un po' di rumore. È normale, è giusto. Sono pezzi importanti per Vasco, ma magari non tanto comuni nei suoi concerti. Cioè è la sua celebrazione dei suoi 40 anni, quindi ha voluto cose che fanno bene al suo cuore. Sì, ma diciamo che va bene, la canzone finale ovviamente è sempre al Battiara. Certo. Questo sì. Dal punto di vista della scaletta ci sono è un Vasco più visto da Vasco che dal suo pubblico. Quindi ci sono le canzoni che magari per tanti non sono fondamentali, ci sono i classici, ma ci sono anche pezzi che sono un pochettino più personali per Vasco, ecco, diciamo così. Che meraviglia! Se volete qualcuno, magari alla fine del nostro intervento ve lo dico. Non so cosa si può sapere, però mi hanno detto che deve essere tutto segreto, non so cosa possiamo già svelare. Sì, tutto segreto, ma insomma le prove, io ho letto anche sui social, le prove le sono viste tutta Modena. Sì, perché poi l'impianto audio, ne parleremo con Enrico Pagliarini, è talmente enorme che tutta Modena le ha sentite. Diciamo queste cose. Allora, intanto la prima canzone l'ha sentita tutti e dovrebbe essere, quindi non c'è nessun tipo di sicurezza, perché ovviamente tutto sarà sicuro solo vedendolo, dovrebbe essere Colpa d'Alfredo. Ah beh ragazzi, sì. E poi dopo un alibi. Ah! Hai capito? Per dirti. Certo. Poi ci sono brani come in scaletta, che lui perlomeno ha provato, ecco, diciamo così. Certo. Non c'è possibilità di essere anche né fraintesi né niente. Lui ha provato brani come Ieri ho sgozzato mio figlio, oppure Vivere una favola, che insomma non sono molto presenti nei suoi ultimi dischi, nei suoi ultimi concerti. E poi ci sono ovviamente i pezzi più famosi, di cui non abbiamo neanche bisogno di parlare, perché insomma liberi oppure di Spari Sopra, quelli che se non li fa non è un concerto di Vasco, quelli che li fa sempre. Ma ad esempio chi l'avrebbe detto, se la fa, che Vasco canti Il tempo crea eroi, ad esempio. Oppure tutti sanno che si può aspettare C'è chi dice no, ma oppure Selli, oppure Vita Spericolata, oppure Siamo solo noi, questi ci sono senz'altro. Ma magari Ridere di te, che è stata fatta nelle prove, che è tutta tutta Modena ha sentito. Quindi, quindi diciamo che quando ho letto di prove blindate era un po' difficile. Esatto. Però ecco, guarda, allora ti cito, visto che siamo qui e parliamo di te, non ci ascolta nessuno. No, infatti. Ti dico una cosa che ha detto un barista qui intorno, tra il serio e il faceto, con quell'accento tipicamente modenese che non capisci mai quanto uno sia o arrabbiato oppure, sì, oppure contento. Ha detto, ma ci avevano detto che l'impianto di che le prove sarebbero state fatte con la mezza potenza dell'impianto, quindi con mezzo suono. In realtà abbiamo sentito tutto per giorni e quindi o hanno davvero usato mezza potenza e sabato sera sarà l'inferno, si sentirà fino a Bologna, oppure effettivamente se è così un suono che sentirà comunque Modena tutta intera anche se non è sotto un palco. Quindi chi non ha trovato il biglietto comunque se passeggia per Modena il concerto di Vasco comunque lo sentirà. Se uno casomai si perdesse la strada la trova, perché segue il suono e arriva. È vero. Grazie a Paolo Giordano, critico grazie musicale del giornale. Io sono sempre contentissima di averlo al Sabato del Villaggio. Guarda. Grazie Paolo. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao. Dimmi almeno qualche cosa, che sono scuse, si era già dimenticata quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori in Modena. Comperato la macchina apposta e mi ero già montato la testa, avevo fatto tutti i miei progetti, sì, non la portavo mica a casa, beh, se la sposavo non lo so cosa provo. Sono convinto ci fosse stato lui, mi avrebbe detto sì. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta il Sabato del Villaggio. Nemici da est, nemici da ovest, nemici da sud, nemici da nord. Chiunque si metterà sulla nostra strada sarà sconfitto. Tuo padre e i tuoi fratelli non ci sono più, ma tu sei qui. L'ultima speranza contro la tempesta è in arrivo. Se non mettiamo da parte le nostre rivalità, moriremo tutti. E non avrà più importanza quale scheletro siederà sul trono di spade. La grande guerra è qui. Ci siamo quasi. Gli appassionati del Trono di Spade avranno sicuramente capito che stiamo parlando della loro serie preferita. È una delle serie più amate, anzi i fan del Trono di Spade sono una specie di set. Cioè loro si parlano a citazioni del Trono di Spade. Il momento è arrivato perché sta per arrivare la settima stagione, mancano un paio di settimane, tra domenica 16 luglio e lunedì 17 alle 3 del mattino italiano, nella notte negli Stati Uniti c'è il primo episodio e quindi sapremo cosa succederà in questa nuova stagione del Trono di Spade. per fare un po' il punto della situazione, caso mai ci fossimo persi. In tutta questa meravigliosa e magmatica serie televisiva ci colleghiamo con uno degli esperti più amati del Sabato del Villaggio, veramente un super super super esperto di serie. Lui è il fondatore di serialminds.com, incidentalmente è anche channel manager della TV Iris, che va strabene, ma noi ogni volta lo chiamiamo per il suo hobby, non per il suo mestiere, cioè quello di divoratore di serie televisive, Diego Castelli. Ciao Diego! Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Insomma, ogni tanto poi quando parlo con te arrivano i messaggi, dicono: ma voi non uscite mai di casa? State sempre sul divano a guardare serie televisive? No! Usciamo, usciamo ogni tanto, però quando ci sono delle serie così importanti uno se le deve anche godere. Uno si organizza. Esatto, uno si organizza. Diego, cosa diciamo di questo Trono di Spade? Ma diciamo innanzitutto che arriva per la prima volta in un momento dell'anno in cui dobbiamo trovare il modo di vederlo quando siamo al mare o in vacanza, perché di solito non era così, poi per esigenze produttive hanno dovuto farlo uscire a luglio e ora siamo qui che cerchiamo di incastrare le vacanze in modo da non perdere nemmeno una puntata, perché poi si sa che anche quando sei al mare vai su Facebook e trovi la gente che è rimasta a casa, guarda cosa è successo e te lo dice. Esatto, quindi devo dire che qualche anno fa con Sky che si vedeva solo con la parabola era un dramma perché uno non ce l'aveva nella casa di vacanza o in albergo, adesso invece si possono vedere anche online e quindi sì, basta una connessione. Sì, sono aumentate le possibilità. Esatto. Uno va all'estero e dice: oh, hai ragione, all'estero, sì, bisogna organizzarsi. Esatto. Comunque, insomma, siamo a un punto cruciale perché mancano solo 2 stagioni alla fine definitiva della serie, come è stato più volte annunciato, e quindi è il momento di tirare le fila. Il famoso inverno di cui si parla da 6 anni, l'inverno sta arrivando, grande mantra della serie, è finalmente arrivato. È il motivo per cui va in onda così tardi, perché hanno dovuto girare quando c'era la neve, perché sennò non ce l'avevano. Ah, certo, e quindi sennò costava un sacco farla finta. Era troppo grande lo spazio. E quindi dobbiamo capire come tutte le storie singole delle singole casate, delle singole regioni che già fanno la guerra tra di loro, dobbiamo capire come riusciranno a continuare a fare la guerra tra di loro, che evidentemente gli piace tantissimo, ma anche a combattere tutti insieme, uniti, contro questi famosi altri estranei, chiamiamoli come vogliamo, le traduzioni sono varie a seconda dello spettatore, che stanno appunto per arrivare dal nord per conquistare il popolo degli uomini. E quindi quello che ci aspettiamo sono grandissime battaglie, grandissima suspense, grandi colpi di scena e, come sempre, morti a destra e a manca, perché insomma la cifra della serie è anche quello, che appena ti affezioni a un personaggio, tac, subito te lo tagliano via. Morti e scene violente e hot, perché il Trono di Spade si risparmia poco. Sì, si risparmia poco. Devo dire che nell'ultimo periodo, sotto quell'aspetto lì, è un filino calato. Cioè, all'inizio, dal punto di vista appunto delle scene un po' piccanti, ci dava un po' più dentro. Esatto. Adesso invece è più la violenza e il sangue che colpiscono, devo dire. Vabbè, però, evidentemente. Sai, quando vedi i mostri che arrivano, magari ti ritorna un attimo di romanticismo, perché dici: qua magari non si sa se arriviamo domattina, quindi via. Esatto, vedi il mostro che arriva, impieghi nel miglior modo possibile il tempo che ti resta, hai ragione. Mancano 12 ore, non è che sei lì a leggere. Sono d'accordo con questa tua visione, non solo della serie televisiva ma anche del mondo. Beh, quindi 7ª stagione, chi volesse passare un po' di tempo al fresco dell'inverno del Trono di Spade si deve fare una bella maratona di recupero, perché 6 stagioni non è uno scherzo. Non sono poche, sì, cominciano a diventare un po' impegnativi, poi gli episodi durano tanto. Quindi... Gli episodi durano tanto e poi bisogna prendere gli appunti, perché gli intrecci non sono... Ah sì, detto che chi vede le serie poi tutte in una volta, da questo punto di vista qui è avvantaggiato, perché effettivamente uno magari fa fatica, ma soprattutto se non ha letto i libri, fa fatica a ricordarsi una cosa che è successa 5 anni fa. Certo. Quindi la cosa migliore da fare sarebbe, ogni volta che ne parte una nuova, rivedersi tutte le precedenti. Farsi tutto il ripassone. Allora, Diego, io come al solito ti utilizzo per sapere cosa vale la pena vedere in questo periodo, perché diciamocelo, tempo libero, aria aperta, passeggiate quando il tempo è bello, ma la sera o quando fa troppo caldo e abbiamo il ventilatore o l'aria condizionata, il divano è sempre lì che ci aspetta, quindi facciamolo fruttare con delle belle serie televisive. Cosa ci guardiamo, Diego? Guarda, di cose che sono appena terminate, nel senso terminata la prima stagione, però che hanno molto colpito, cito sicuramente American Gods, tratto dal romanzo di Neil Gaiman, quindi serie un po' fantasy, ambientata in America, dove ci sono questi antichi dei che si trovano a dover combattere con le nuove divinità che sono la tecnologia, il denaro, la modernità. È un racconto molto allegorico, però girato benissimo. I fan del libro avevano molta paura che venisse fuori una pacchianata, e non lo è, nel senso che rende molto bene l'idea, tutti gli attori bravissimi, funziona alla grande. E quando si parlava di scene piccanti, ecco, lì ce n'è finché se ne vuole. E un'altra cosa che è piaciuta molto di recente è questo The Handmaid's Tale, altra serie tratta da un romanzo, questa volta un romanzo distopico, in cui si immagina un'America in cui prima di tutto è calata mortalmente la fertilità, per cui pochissime donne sono rimaste fertili, e queste poche donne fertili vengono in qualche modo schiavizzate da una società diventata super religiosa che le usa appunto sostanzialmente come incubatrici per le figlie dei ricchi. E sono 10 episodi di una pesantezza disarmante dal punto di vista emotivo, però molto intense, e soprattutto che risuonano in modo particolarmente attuale, pur essendo una storia che è stata scritta nel 1985, e però ancora 30 anni dopo, per la condizione femminile, per un certo tipo di ragionamento sull'integralismo religioso, ancora riverbera in maniera piuttosto forte, e ci fa capire che questioni che magari pensavamo risolte non lo sono, e su cui vale ancora la pena di riflettere. Un cast peraltro che gli appassionati di serie amano molto, perché c'è Elizabeth Moss di Mad Men, Samira Wiley di Orange is the New Black. Esatto, insomma, ci sono Joseph Fiennes che ogni tanto compare. Sì, verissimo. Poi magari non è sempre fortunatissimo con le serie che fa. Però insomma, un bel cast. Allora, io ti posso dire cosa mi è piaciuto ultimamente? Sai che a me piacciono quelle un po' più light, un po' più femminili. Mi è piaciuto un sacco Glow. Mi è piaciuto un sacco Glow. Cioè Glow, che è l'acronimo che sta per Ladies del Wrestling. Esatto, anche questo diciamo tratto più o meno da una storia vera, nel senso che erano queste ragazze, donne, che si mettevano a fare il wrestling negli anni 80 per dare una specie di contraltare alle star maschili di quello sport, di quello spettacolo. E Netflix ci ha fatto una serie, ed è bello perché noi siamo abituati ad apprezzare le serie particolarmente complicate, no? Cioè quando ne vedi tante poi ti piacciono le cose che cercano di andare un po' oltre, che diventano particolarmente spesse, diciamo. E però ogni tanto è anche bello tornare alle storie semplici, e Glow è una storia semplicissima di donne che cercano un riscatto da vite troppo semplici o semplicemente dalla povertà, e cercano una ribalta, diciamo, non riuscendo, magari la protagonista non riesce a fare l'attrice seria, tra virgolette, e si ritrova a fare questa cosa in cui però alla fine si appassiona. Cioè è tutto estremamente colorato, finto, anche un po' da poveracci, diciamo così. Però quando ti impegni con una cosa, quando crei un gruppo, poi allora il sentimento esce fuori lo stesso, e quindi è bello anche seguire una storia di riscatto che è quella cosa lì, cioè senza andare a cercare chissà quali altri riferimenti altissimi. Una storia di riscatto con i costumi degli anni 80. Sì, le musiche degli anni 80, i trucchi degli anni 80. Siamo tutti nostalgici, inutile che stiamo qui. No, quei colori lì. Gorgeous Ladies of Wrestling, solo me la sono ricordata giusta. Visto che abbiamo citato Netflix con Glow, Netflix in questo periodo è scatenata? Scatenata nel senso, perché ha ricevuto anche un po' di critiche, perché per la prima volta ha cominciato a cancellare le sue serie. Grandi dibattiti. Perché Netflix è stata per un tot di tempo, poi da quando è arrivata in Italia, una specie di porto felice, no? Tante serie di qualità comunque medio-alta, dava l'impressione di poter solo produrre, di poter far felici tutti, anche magari riprendendo vecchie serie di cui faceva degli speciali. Sembrava che non ci fosse un desiderio che uno spettatore seriale potesse immaginare senza che Netflix lo esaudisse, no? Però alla fine ci si scontra anche lì con, come dire, con la realtà, con l'economia, per cui ci sono anche serie che Netflix produce, e magari sono anche molto costose, che però non funzionano perché anche Netflix, pur non essendo una rete televisiva normale, però anche lei i suoi dati di ascolto, le sue visualizzazioni, e soprattutto è in grado di vedere quanto una serie tira, diciamo così, nel mondo di internet, nel mondo della comunicazione. È successo con Marco Polo e non era stato un grande problema, è successo con Sense8, che invece era una serie molto costosa che piaceva però a una nicchia troppo piccola, è stata cancellata, è venuta su una sommossa popolare per questa cancellazione, e è notizia di delle ultime ore dell'altro ieri che Netflix farà un TV movie conclusivo, chiamiamolo così, due ore conclusive di Sense8, sempre dirette dai fratelli Wachowski, almeno per dare una conclusione alla storia. Per il resto però il volume produttivo continua a essere altissimo, per cui è uscita ieri la nuova Gypsy con Naomi Watts, dovrà uscire Ozark con Jason Bateman, e sembra che vadano ormai verso praticamente una serie nuova a settimana. Poi è chiaro che qualcosa devo anche tagliare, sennò non riescono a sopravvivere. Sì, cioè, noi non sappiamo i dati di ascolto, perché ovviamente no. Di ascolto o di streaming, non so come li tengono segreti. Accuratamente segreti. Quindi sì. Ne abbiamo già parlato qualche volta, ci deve essere una sorta di incrocio tra dati di ascolto in senso lato buoni, reputazione della serie e costi, perché Marco Polo obiettivamente era talmente costosa che... Certo, ma il ragionamento di Netflix è il ragionamento di qualunque pay, quasi più che gli ascolti e quindi le visualizzazioni contano anche gli abbonamenti, e conta la capacità di diventare un punto fisso nella dieta mediale delle persone. Quindi Netflix ha bisogno che le sue serie siano belle, ma ha bisogno che le persone ne parlino, certo. Ne parlino in modo tale da creare quel rumore anche di fondo per cui una persona dice: io non posso stare senza Netflix. È un po' manipolatorio detto così, però è una cosa normalissima e pulitissima. Certo. Appena hai finito di vederne una, devi già volerne vedere un'altra perché ne senti parlare. Certo, devono convincere le persone ad abbonarsi. E come lo fai? Facendo in modo che quelli che sono già abbonati continuino a parlare delle loro serie. Ti chiedo un'ultima cosa. In questo periodo si è diffusa una notizia, non so quanto vera, quanto no, voglio sapere secondo te quanto può essere vero, che stiano pensando a un film di Downton Abbey. No, ma è una cosa abbastanza conclamata ormai, in realtà se ne parla da diverso tempo. Ora dicono che lo vogliono fare, con l'unico problema di dover ritirare insieme un cast che comunque è abbastanza corposo, insomma sono tanti personaggi e tanti attori e attrici che in questo momento stanno facendo altro, quindi nel momento in cui si vuole fare bene, ci sono magari 20 personaggi, 20 attori importanti che vanno ritirati dentro e che magari sono impegnati con altre cose, però è una questione appunto logistica, però la volontà c'è. Bene, solo che siccome le aspettative sono alte, vedano di farlo bene, perché sennò ci rimaniamo malissimo. Downton Abbey è proprio finita, quindi riesumarla devi essere bravo a convincerci che hai fatto bene a farlo, perché altrimenti un attimo che diciamo ma no, così ci avete rovinato il sogno, dovevate lasciarlo come era prima. Però io vado a vederlo, no anch'io, non sicuramente no poi ci casco lo stesso, come ci sono cascata con tutti i film di Sex and the City. Esatto. No, non c'è niente da fare. Diego, ci vieni a trovare prima della fine della stagione del Sabato del Villaggio qui in studio da noi, così parliamo ancora di serie TV, ma parliamo anche di Iris, che sta andando benissimo, e ci racconti un po' cosa succederà quest'estate? Ben volentieri. Grazie. Quando allora volete, ci sono. Grazie a Diego Castelli. Mi raccomando, serialminds.com per tutto quello che riguarda le serie TV. Grazie Diego. Grazie a voi. Ciao. Noi ci risentiamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Mamma! Che c'è? Ah, signora, commissario Montalbano sono. Posso salire un attimo? Salga, prego. Grazie. Prego, signor commissario, entri. Permesso. Buongiorno. Buongiorno. Ma io non capisco, pensavo di averci detto già tutto. A chi? A dottor Ugello. Ah, sì, no, ma questa è una normale verifica. Ah, ma perché il dottor Ugello è stato scrupolosissimo. Io lo giuro, ho venuto qua di mia più volte. Ah, più volte. Lo avrete riconosciuto perché lui è uno degli attori ma più amati in assoluto in Italia. Veramente lui scatena le folle, scatena gli indici di ascolto, porta la gente al cinema. Luca Zingaretti è un attore ma anche un uomo amatissimo in Italia. ha avuto un'idea straordinaria questo fine settimana. Per chi fosse dalle parti di Pesaro o per chi non sapesse cosa fare domani e magari decidesse di andare a fare una gita a Pesaro, c'è il Pesaro Dog Fest, ideato e diretto proprio da Luca Zingaretti, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera Luca. Buonasera, buonasera a voi, a tutti quanti. Allora, intanto voglio sapere com'è nata l'idea di un Dog Fest, terzo anno, che quindi vuol dire che funziona bene, ma come mai l'idea di inventarsi un'occasione del genere? Ma io avevo appena sperimentato il genere facendo due regie, uno su Gulu, che è una zona nel nord dell'Uganda dove c'è ormai, ahimè, da 20 anni, anche 25, una terribile guerra civile, e ero andato lì per raccontarla per conto di una ONG che si chiama AMREF. E poi immediatamente dopo avevo fatto un documentario sulla vita di Suso Cecchi D'Amico, che è questa straordinaria sceneggiatrice italiana morta qualche anno fa, e mi è capitato di, come dire, sperimentare in prima persona le straordinarie potenzialità di questo genere, che in Italia non è poi così in voga. E allora, quando col sindaco di Pesaro, dove stavo facendo un film qualche anno fa, insomma, si discuteva, si rifletteva su che cosa fare qui a Pesaro, lui mi ha detto: a me piacerebbe fare una cosa insieme a te, ci è venuto in mente questo Dog Fest, proprio per portare il documentario, insomma, alla portata di tutti quanti. È difficile in Italia riuscire a vedere un documentario, invece secondo me rappresenta un po', veramente, in un mondo che va sempre più veloce, la riappropriazione di un momento di approfondimento delle notizie, degli argomenti, e poi anche un momento in cui si possono verificare le fonti da cui quella notizia o quell'argomento viene. Mi sembra sempre che nei confronti del documentario ci sia un po' di, non so, difficoltà solo ad avvicinarsi, perché nel momento in cui un documentario arriva verso di te con un festival o con una trasmissione televisiva, beh, a quel punto scopri che il documentario invece è qualcosa di estremamente godibile, interessante, coinvolgente. È assolutamente così, ma non solo per... Io proprio ho sperimentato facendo questo festival, questa cosa che dice, perché a un certo punto in questi 3 anni la gente passava e diceva: che fate? Dice: ma facciamo dei documentari, mostriamo dei documentari, insomma, si sedeva qualcuno e poi rimaneva e poi tornava il giorno dopo. E adesso, ieri, praticamente c'era la piazza stracolma di persone, abbiamo dovuto aggiungere non solo sedie, ma proprio abbiamo dovuto togliere delle cose dal palco in modo che fosse visibile a più persone, anche quelle che hanno trovato posto solamente sui lati del palco, perché comunque il documentario è un qualcosa che ti permette di lasciarti andare a delle riflessioni oppure di conoscere un argomento che magari non conoscevi. Secondo me ha un grande potenziale, proprio perché in Italia non è molto ben conosciuto, non è molto ben sfruttato, non è molto ben usato come genere, e invece in altri paesi sì. E quindi, insomma, noi, col fatto che lo conosciamo poco, abbiamo un grande margine di crescita in questo senso. Come avete scelto i documentari? Perché ci sono tanti temi, tanti sguardi sul mondo. Sì, beh, ci sono documentari di autori affermati che noi abbiamo scelto, anzi ha scelto per noi Marco Spagnoli, e ci ha portato in una rassegna che presentiamo, appunto. E poi ci stanno invece documentari in concorso che, come ogni anno, arrivano alla festa, qui al Festival Documentari, dopo essere passati attraverso una selezione di una commissione esaminatrice. Noi ne portiamo qui dai 10 agli 8 e li presentiamo al pubblico pesarese. Quali sono i temi di quest'anno? Diciamo che noi puntiamo sui documentari a sfondo sociale, in senso molto ampio. Quest'anno il festival, perché poi intorno ai documentari ci sono anche giornalisti che vengono qui a raccontarci la loro esperienza, documentaristi, giornalisti, scrittori di libri. Ieri c'è stato Maurizio De Giovanni, oggi c'è Antonio Caprarica. Diciamo che il tema di quest'anno è i migranti. Noi abbiamo scelto qualche mese fa, ahimè siamo stati lungimiranti, nel senso che proprio in questi giorni questa vicenda sta drammaticamente conquistando le prime pagine dei giornali e le aperture dei TG. Ebbene sì, ebbene sì. A volte l'occhio del documentarista arriva prima di quello del giornalista, proprio perché ha la fortuna di non dover stare sulla cronaca, ma di poter guardare le cose più in prospettiva. Hai detto che c'è una selezione, quindi c'è in Italia una produzione interessante di documentari? Sì, c'è tantissima produzione, magari non tutti hanno i mezzi necessari poi a vincere la concorrenza internazionale, perché fuori dall'Italia i documentari si fanno con un budget 10 volte superiore al nostro, insomma non è raro trovare dei documentari che hanno come budget anche 1,5 milioni di euro. Da noi ci sono dei documentari che noi presentiamo perché poi noi non interessa tanto la fattura quanto piuttosto la passione che il documentario che c'è nel documentario che presentiamo. Noi abbiamo presentato i documentari fatti con 10.000 euro. Il regista che si è messo in spalla la macchina da presa o la telecamera e si è andato in giro a girare il suo documentario, insomma. Io che ho avuto qualche frequentazione col documentario posso convenire che 10.000 euro, che magari l'ascoltatore può sembrare sia una grossa cifra, sono veramente nulla per realizzare un prodotto filmico, assolutamente nulla. Luca, ma tu sali sul palco, fai anche ti concedi di fare anche un po' l'attore? Io, guarda, tra un po' faccio anche le cose, faccio le pulizie praticamente. E quando si abbraccia un progetto è così, Beh, è un po' come un figlio tuo, no? Quindi te ne prendi cura, fai delle cose che non faresti mai in altri ambiti. Io qua faccio tutto, leggo i libri di chi viene a presentarli, intervisto i giornalisti che vengono. Oggi per esempio abbiamo Antonio Capravica e Fabrizio Gatti, che ha fatto questo bellissimo documentario sui migranti, 61 miglia a sud di Lampedusa, questo è che è un documentario straordinario. E insomma, sul palco con loro ci sto io, a interrogarli ci sto io. Poi io tendo sempre ad aprire la conversazione al pubblico, insomma, perché è giusto che chi viene abbia la possibilità di chiedere, insomma, si sente in qualche modo coinvolto. Quindi chi fosse già dalle parti di Pesaro o chi magari domani decidesse di fare una scampagnata, io sinceramente consiglio il Pesaro Doc Fest, perché questo entusiasmo di Luca Zingaretti la dice veramente tutta. Luca, sono molto contenta che tu abbia abbracciato l'arte dei documentari, perché vale la pena farsi conquistare dai documentari, sono veramente qualcosa di straordinario. Guarda, allora ufficialmente ti invito per il prossimo anno, vieni ad essere dei nostri, c'è bella gente, c'è una bella energia e quindi sono sicuro che ti troveresti bene. Ci sarò sicuramente. Grazie a Luca Zingaretti. Beh, insomma, basta dire il nome, è amatissimo, ma davvero avete capito quanto entusiasmo, quanto lavoro, quanta passione. Grazie Luca. A voi un abbraccio. Noi tra poco andiamo al cinema, il cinema in sala, i film che vediamo questo fine settimana, ma tra poco, perché adesso c'è un attimo di traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. I am your father and you will show some respect. I will count to three. One, two, three. Abbiamo parlato in apertura del nostro sabato del villaggio, del grande concerto di Vasco Rossi questa sera. Ci sono quasi 200 sale in tutta Italia che lo trasmettono, quindi tantissimi schermi occupati da Vasco Rossi, ma questo appunto è il momento di andare a sentire quali sono le novità al cinema di tutto il fine settimana. Era un estratto dal trailer di L'infanzia di un capo. È uno dei tanti film che escono questo fine settimana. Insomma, dove c'è il brutto tempo è bello rinchiudersi al cinema. Dove c'è bel tempo, almeno al cinema, c'è l'aria condizionata. Ci sono molti film che escono e chiediamo subito cosa ne pensa il nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, assolutamente, una settimana tra l'altro con dei nomi grossi, poi magari a volte un po' sprecati, nel senso che non sempre magari i film tengono le promesse dei nomi, però Robert Pattinson in questo film L'infanzia di un capo, poi ne parleremo fra poco, anche Michael Fassbender, abbiamo un altro film con Charlize Theron e Javier Bardem, insomma è una settimana di locandine impegnative. Dicevi L'infanzia di un capo, gran bel esordio alla regia per Brady Corbett, attore americano, liberamente ispirato ad un racconto di Jean-Paul Sartre contenuto in una collana, in una collezione che si chiamava Il Muro, e che racconta la vita di un bambino, Prescott, in una villa vicino Parigi dove il papà è consigliere del presidente americano. Siamo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e si sta lavorando al Trattato di Versailles. E il film però non si concentra sulla parte politica o sulla parte storica, si concentra proprio su questo, sulla personalità di questo bambino, la formazione del carattere di Prescott, che da una parte denuncia una tensione intellettuale precoce per un bambino di quegli anni, e poi dall'altra però degli scatti d'ira che cinematograficamente vengono tradotti in momenti praticamente da horror psicologico, in quegli sguardi torvi che solo i bambini sanno fare per diventare molto inquietanti nella cinematografia. C'è la figura appunto di questo amico di famiglia che è Robert Pattinson, un personaggio ambiguo, e quindi, come dire, si riesce a creare un mondo che racconta sullo sfondo un momento storico con la S maiuscola, ma se ne disinteressa quasi da subito per concentrarsi invece su questo racconto di crescita, una crescita un po' noir, ma pur sempre una crescita. Franco, ma dimmi la verità, cosa succede alle 2:22? Alle 2:22 possono succedere tante cose. Diciamo che al protagonista di questo film, che si intitola 2:22, Il destino è già scritto, succedono sempre le stesse cose, e questo è abbastanza inquietante, perché lui è un controllore aereo, uno di quelli che lavorano nelle torri di controllo, e alle 2:22 di un certo giorno, per una sua disattenzione ma anche per una sorta di allineamento new age dei pianeti, come dire, sfiora l'incidente aereo. Lo sfiora solamente, però viene messo un po' in quarantena, gli dicono stai a casa, riposati, che forse ne hai bisogno. E da quel momento in poi, alle 2:22 di tutti i giorni, cominciano a succedere le stesse cose nella stessa sequenza. Capisce, perché è uno che è anche un po' sensitivo, che questo è una sorta di metamessaggio che gli sta arrivando su qualcosa di molto grosso e di molto grave che potrebbe succedere, e cercherà di non farlo succedere. Questo per dire in soldoni la trama. È un film che parte molto bene, ha un bel plot iniziale, è abbastanza accattivante, poi a mio modo di vedere un po' si perde per strada in derive appunto un po' filosofiche, un po' new age, un po' da karma, che tutto sommato annoiano più che tenere lì. Ma insomma, è un film che ha alcuni elementi che sicuramente possono intrigare una parte del pubblico. Qual è invece il tuo consiglio, il tuo personale consiglio del fine settimana? Ma guarda, con i fatidici 8 euro in tasca io vado a vedere Tutta la vita, Codice criminale, di Adam Smith con Michael Fassbender e Brendan Gleeson, straordinaria coppia di attori protagonisti nei panni di un padre e di un figlio. Brendan Gleeson, capo banda di una banda di rapinatori che vive in un accampamento di roulotte, siamo in Irlanda, nella campagna irlandese, e un figlio appunto Fassbender che a sua volta, diciamo, è impegnato nell'impresa di famiglia, ma che vorrebbe per suo figlio, il bambino Tyson, un domani migliore. Questo domani migliore non arriva mai, perché la mano del padre è talmente forte che impedisce, anche solo con uno sguardo, anche solo psicologicamente, al figlio di ribellarsi. È una bella storia di crescita. Questo è un po' al contrario del film precedente, parte piano e diventa sempre più se stesso come film durante il suo percorso, fino a un finale molto, molto interessante. Devo dire che sicuramente i fatidici 8 euro li spenderei qui, e dico anche che è un Fassbender un po' diverso dal solito, da quello che era diventato il solito, un po' più fisico, un po' più terrestre, e questa cosa un po' più ruvido, e questa cosa sicuramente gli fa bene. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao, ci sentiamo più tardi alle 18, Rosa Purpurea, tutti i film della settimana, e anche Mamma Mia il musical, che arriva in una nuova versione. Avremo Sabrina Marciano che interpreta il ruolo che fu di Meryl Streep, insomma, come dire, cercheremo di svelare un po' tutti i segreti di questa novità. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologia, libri e, come sempre, anche qui nella terza ora, dalle 17 alle 18, il consueto appuntamento con RadioTube, con Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Una puntata speciale che abbiamo preparato anche in vista del grande Modena Park, l'evento di questa sera dell'immenso Vasco Rossi. Torniamo tra poco al concerto di Vasco, andando dietro le quinte e scoprendo tutta la macchina tecnologica. Ma parleremo in questa seconda ora anche dei libri del momento con Alessandra Tedesco. Incontreremo Gue Pequeño, che torna con un nuovo disco, ma cominciamo facendo un viaggio. Ste, prendi le valigie. Ah, mamma, se pesano. Sei tu che ti porti dietro sempre l'armadio. E se piove? E se fa freddo, eh? Sì, in montagna, mica a Caserta d'estate. E voglio vedere la tua meravigliosa organizzazione, visto che stavolta ci hai pensato tu. Vedrai che bel posto. Non sarà quel palazzo gigantesco proprio lì di fronte? Giulia, quella sarebbe la Reggia. Ma dai! A proposito di organizzazione, alla Reggia andiamo domani, che si entra gratis. Intanto però andiamo verso il centro, così posiamo i bagagli. Il tuo armadio con le ruote, vorrei dire. Direzione? Andiamo di qua, è proprio in centro. Ma che bravo, hai prenotato un bel alberghetto romanticone. Certo, tu sei la mia regina e io sono il tuo re. Sì, semmai il mio giullare. Questo è un piccolissimo brano dell'audioguida che Radio 24 organizza in collaborazione con il Touring Club. Queste audioguide bellissime che ormai avete già imparato a trovare sul sito di Radio 24, anche ovviamente sul sito del Touring Club, e che sono un po' il filo conduttore di questi appuntamenti del Sabato del Villaggio, il nostro passaggio in Italia. E come sempre al Sabato del Villaggio, per parlare di questi luoghi meravigliosi in Italia, ogni fine settimana insieme a noi c'è Annalita D'Ambrosio. Ciao Annalita. Ciao Marta. Dove mi porti questo fine settimana, anche se già un po' l'ho capito da questa audioguida? Sì, ti porto in un posto a me particolarmente caro, un percorso molto bello questo di questa settimana, sono tutti bellissimi i nostri percorsi di passaggio in Italia. Vogliamo approfittare, diciamo, anche di un'iniziativa che i nostri ascoltatori già conoscono. Domani è la prima domenica del mese e quindi c'è la possibilità di visitare dei siti straordinari gratuitamente. Certo. E c'è la possibilità di visitare tra questi siti straordinari anche alcuni dei siti borbonici della mia regione, della Campania. Allora giochi quasi in casa, dai. Gioco in casa. E mi piace ricordare che alla Reggia di Caserta, non la domenica, non domani, però insomma in genere il sabato e la domenica, è possibile visitare un gioiello nel gioiello, che è il teatrino di corte. E questo è possibile farlo grazie ai volontari del Touring Club. Nella nostra guida si parla dell'intero percorso di visita dei siti borbonici e noi come sempre abbiamo un ospite che ne sa più di noi e quindi col quale ci informiamo meglio. Lo ringrazio, Silvestro Serra, che è il direttore responsabile del mensile Touring, il nostro modo di viaggiare, mensile che a giugno ha dedicato proprio un numero a questi siti. Ciao! Eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno, che meraviglia. Non so quanto te, perché insomma non sono proprio locale, però insomma diciamo che l'ho visitato bene questo circuito di siti borbonici e quindi mi piace parlarne. Ecco. Ma mi raccontate un po' cosa sono qui, perché io appunto da Brianzola non sono mai stata a visitarli, adesso me lo segno e poi con l'audioguida mi raccontate cosa sono? Allora, li abbiamo chiamati circuiti borbonici perché è un nome così che rievoca molto la nostra storia, magari un po' sfortunata, del nostro sud. Diciamo che sono un circuito che è stato un po' ricucito, che mette al centro di tutto la Reggia di Caserta, che è la piccola Versailles sotto l'ombra del Vesuvio, che anche se poi tanto piccola non è, e forse grande come Versailles, e che è stata, grazie anche all'intervento della nuova direzione, rimessa un po' a posto e piano piano sta recuperando visitatori. Mentre prima ne perdeva 50.000 all'anno, adesso ne comincia a conquistare tantissimi, anche perché fa un sacco di attività e quindi attira non soltanto visitatori della Reggia, ma anche visitatori della mostra di arte contemporanea di Lucio Amelio, che è stata inserita dentro, il teatrino che noi del tour teniamo aperto. Insomma, effettivamente è un posto, un polo tanto comodissimo da raggiungere, la fermata del treno è esattamente vicino, di fronte, sì. E quindi diciamo è sicuramente dove cominciare questo circuito, ma è un circuito che appunto potrebbe avere tante altre tappe. Un'altra tappa che è lì vicino è il famoso San Leucio, ci sono le tele, le sete di San Leucio, praticamente tutte le regge d'Europa, compresa anche la Casa Bianca, quindi diciamo che era una grandissima produzione di artigianato di altissimo livello, che dimostra che i Borboni poi tanto incivili non fossero. Terza Silvestro, infatti piano piano ci avviciniamo più verso casa mia, che io sono napoletana, vero? È un percorso insomma che poi ci fa lasciare il territorio casertano e ci fa andare verso Napoli. Ecco, la grandissima capitale che si è lì, che è un po' sgarrupata, come si diceva lì, però sicuramente grandissima capitale per secoli, e quindi conserva in particolare in cima questo famoso capo di monte, nota sia per le ceramiche, che anche queste sono assolutamente il numero uno in Europa, che ha avuto una storia meravigliosa di artigianato, ma anche perché c'è adesso anche lì un altro direttore non italiano, mi pare che sia francese, che ha recuperato il capo di monte a tutti i napoletani, addirittura gli fa le navette che dal centro di Napoli portano gratuitamente i visitatori in cima al colle, e lì si può trovare davvero tutta la storia dell'arte italiana dal 300 al contemporaneo. Silvestro, tra l'altro oggi, 1° luglio, inaugura una mostra importante. Esatto, ne sta per chiudere una, che è quella su Picasso a Napoli, perché è una storia bellissima di Picasso a Napoli, è veramente da vedere, abbiamo tempo fino al 10 luglio. Invece oggi apre un'altra mostra di Jan Fabre, che è un notissimo artista poliedrico, anche cinematografare, belga, che inaugura appunto proprio oggi in quella sede. Ecco, Silvestro, è importantissima l'attività che svolgono i volontari del Touring, tornando alla Reggia di Caserta, perché questo sì. Teatrino di corte, assolutamente straordinario, io ho visto delle immagini, purtroppo quando ho visitato di recente la Reggia non era aperto perché sono stata in settimana. Perché le chiavi ce le hanno i volontari del Touring, bisogna sapere quando lo aprono. Il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13. Tutti i weekend, noi non siamo guide, però aiutiamo i visitatori, anche sono molto formati, hanno avuto dei corsi di formazione, quindi sanno tutto di questo teatro, che effettivamente è un piccolo gioiello, anche questo fatto naturalmente soltanto per esclusivamente da Bambitelli per usi di corte, quindi per il re, ma poi naturalmente aperto adesso a tutti, sono 5 ordini di palchi all'italiana, quindi pensate che fu inaugurato con il libretto di Pietro Metastasio, quindi diciamo che sicuramente è partito bene, ecco, diciamo, e quindi diciamo adesso può essere visitato, magari ci vanno anche degli spettacoli in futuro, quando, come dire, la Reggia andrà. Ci hanno anche girato Mission Impossible 3, tanto per dire quanto è importante anche per Tom Cruise, che addirittura ha dato un finanziamento che vale di qualche decina di miliardi di dollari per recuperare non so quale tela, ma insomma comunque è stato colpito e ha diventato un set cinematografico, che qui non sarà l'ultima volta, temo. Grazie a Silvestro Serra, direttore responsabile del mensile Touring, il nostro modo di viaggiare, che ci ha portato in questo itinerario bellissimo dei siti borbonici della Campania. Allora scaricate l'audioguida e ricordatevi sempre il mio messaggio: il viaggio comincia nel momento in cui incominciate a documentarvi sul viaggio. Visitate la Campania, scaricate la nostra audioguida. Grazie Silvestro Serra, grazie Anna Rita D'Ambrosio, vado a sognare anch'io il mio viaggio a Caserta. Grazie, al prossimo sabato. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Il sabato del villaggio. Parlare di ABBA, insomma, ci ha aggiornato il nostro Franco D'Assisi non solo sulle uscite al fine, il cinema il fine settimana, ma certo che parlerà del musical Mamma Mia nella Rosa Purpurea, quindi parliamo degli ABBA anche nello spazio. No, non parliamo. Hai visto dalla mia faccia che non stiamo come, per parlare degli ABBA. Ma come, hai detto, mettiamo musica svedese, gli ABBA, Alessandra Tedesco con me. Ma io parlo di un'altra Svezia, Marta, sai come quella dei Svezia? dei gialli svedesi, quella dove corre il sangue. Tu mi hai detto mettiamo musica svedese, io ho messo gli ABBA. No, ma le atmosfere sono molto, molto diverse, cara Marta. Allora, di cosa stiamo parlando? Qual è il libro del momento per Alessandra Tedesco? Il libro del momento si intitola La strega, l'ha scritto Camilla Läckberg, pubblicato da Marsilio. La Läckberg è una scrittrice svedese famosissima in tutto il mondo, in Svezia addirittura veramente è una star, è considerata la regina del thriller nordico, del poliziesco. Sottolineo che si pronuncia Läckberg, perché noi in Italia, devo dire, anche io fino a qualche tempo fa la chiamavo Läckberg, e invece insomma lei insiste nel dire guardate che il mio cognome è Läckberg, e quindi ok. Vabbè, noi pronunciamo come dice lei. Come dice lei, Läckberg. No, vogliamo far arrabbiare anche perché questi giallisti, thriller, non si sa mai cosa teniamo buona. Allora Marta, il nuovo romanzo di Camilla Läckberg, ti dico che è uscito in Italia il 22 giugno ed è già nella classifica dei primi 10 romanzi più venduti in Italia, quindi è sicuramente uno dei libri del momento. Tornano i suoi personaggi seriali, che sono l'ispettore Patrick Edstrom e la scrittrice Erika Falk. Torna anche il suo luogo seriale, perché lei ambienta tipo La signora in giallo, no? Che è tutto a Cabot Cove. In questo caso tutto avviene a Fjällbacka, un piccolo paesino della Svezia, dove pare sia il paesino con il più alto indice di omicidi a questo punto, perché già è il decimo romanzo di Camilla Läckberg. Appunto, se la batte con Cabot Cove. Esattamente, okay. Se la batte con quello. Questo romanzo, brevemente la trama, tanto è un thriller, non è che vi posso raccontare moltissimo. Appunto, diciamo, siamo a Fjällbacka. C'è un'attrice, Marie Wall, che torna appunto in questo piccolo paesino perché è la protagonista di un film su Ingrid Bergman. Infatti questo Fjällbacka era il posto dove Ingrid Bergman amava, insomma, rifugiarsi quando stava appunto in Svezia. E questa Marie però ha qualcosa che non va, nel senso che 30 anni prima lei e la sua amichetta del cuore erano state accusate di aver ucciso una bambina di 4 anni. Accidenti. Stella. Guarda caso, mentre lei torna nel suo paesino, cosa succede? Scompare un'altra bambina misteriosamente. Coincidenza? Per capire se esiste naturalmente un collegamento fra i due casi, l'ispettore Patrick Edstrom e la sua squadra dovranno, diciamo, svelare una serie di misteri. Tra l'altro, Alessandra, mi hai detto che lei è la scrittrice è un personaggio particolare, cioè sì, guarda, interessante. In Svezia è veramente una star, tra l'altro facciamo un po' di gossip anche letterario. Lei si è sposata assolutamente a sorpresa, nel senso che non aveva annunciato a nessuno, neanche la sua casa editrice italiana, appunto la Marsilio, che si sarebbe sposata. Si è sposata veramente alcuni alcuni giorni fa con il suo compagno che è 10 anni più giovane di lei ed è al suo terzo matrimonio. 4 figli, 3 matrimoni. Potete giocarli all'otto questo numero. E è pure giovane, quindi ha battuto ogni record. E poi vi dico che lei sarà anche in Italia il 10, l'11 e il 12 luglio fra Milano, Cortina d'Ampezzo e Bassano del Grappa. Quindi se siete dei fan dei gialli nordici vi possiamo anche segnalare questi appuntamenti. E che bella ragazza, la stavo guardando, bella, stavo curiosando, proprio bella. Gli appassionati di gialli si scatenano in questo periodo, gialli, thriller sono tra i generi più amati d'estate. Assolutamente, sempre. Allora, per par condicio, visto che abbiamo parlato di una giallista straniera, adesso parliamo di un thrillerista italiano, italianissimo, Marcello Simoni con L'eredità dell'abate nero, pubblicato da Newton Compton Editori. Allora, Marcello Simoni è quello sostanzialmente che con il suo primo romanzo Il mercante di libri maledetti aveva veramente conquistato il pubblico italiano e non solo. Poi ha fatto una serie di altre saghe, trilogie e adesso con questo L'eredità dell'abate nero inizia appunto una nuova trilogia. Ora Marta, io non amo particolarmente questo tipo di gialli storici o pseudostorici, però oggettivamente veramente piacciono a tanti lettori, a tanti ascoltatori, quindi mi sembra giusto segnalarli, mi sembra giusto parlarne. Ti dico rapidamente la trama. Allora, siamo nella Firenze del 1400 più o meno e c'è un banchiere che viene ucciso in circostanze misteriose nella cripta dell'abbazia di Santa Trinita. L'unico testimone è il protagonista di questa nuova saga, Tigrinus, che è un giovane ladruncolo, e ovviamente lui viene arrestato con l'accusa di omicidio, in realtà è stato solo il testimone e poi si capirà tutto alla fine. Per gli appassionati quindi di gialli con ambientazione storica. Sì, storica o diciamo similare, mettiamola così, sicuramente per chi ha già letto Marcello Simoni ha apprezzato i suoi romanzi precedenti, per chi ha voglia anche un po' di evadere con la testa e con la fantasia. Ancora consigli, Alessandra? Adesso dalla Firenze della metà del 400 andiamo a Mosca. Si intitola Un gentiluomo a Mosca, romanzo dello scrittore americano Amor Tulls, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Sai che quest'anno si stanno celebrando un po' tutti gli anniversari della rivoluzione russa. Certo. Del 1917. Allora, questo romanzo lo fa in modo assolutamente ironico, perché si è inventato l'autore un personaggio, il conte Rostov, che viene processato da un tribunale bolscevico, siamo nel 1922, e viene condannato ad una strana, diciamo, pena, cioè è costretto a restare nell'hotel Metropol di Mosca e non può uscire da qui, cioè agli arresti domiciliari in un hotel. Se esce dall'hotel verrà fucilato. Alla fine questo conte Rostov rimarrà in questo hotel per 30 anni. Lui chiaramente ha il carattere, gli atteggiamenti del ricco russo che ancora non si è abituato alla rivoluzione bolscevica, e allora dice sostanzialmente che non è da gentiluomini lavorare, perché è una cosa, diciamo, che lo non capisco. Va bene per un certo capisco. Rango. Poi lentamente invece lì inizierà a fare il cameriere, poi c'è un incontro con una ragazzina, Nina, con la quale insomma inizia anche a divertirsi, soprattutto a scoprire un nuovo punto di vista sulla realtà. Quindi un romanzo, insomma, che fa anche divertire, che fa vedere la Russia di quell'epoca, che ci propone questo personaggio. Presente, ti ricordi quel film che si incentrava tutto su un hotel? Grand Budapest Hotel. Esattamente, quello lì. E beh, diciamo che è una cosa simile, perché in questo caso il protagonista, il conte Rostov, e l'hotel sono protagonisti nella stessa maniera. Mi piace tantissimo, ma mi incuriosisce quello con quel campo da calcio, quel libro verde la laggiù, ovviamente gli ascoltatori non mi vedono, ma io sto indicando c'è un campo da calcio là. Tu hai pianto quando hai visto L'addio di Totti? Sì. Ecco, lo sapevo, ci avrei scommesso. Sto facendo un sondaggio personale adesso. Sì, sono romanista, ma ho pianto. No, non sapevo fossi romanista, sì. Vedi? E allora ti dedico questo romanzo, è un romanzo, diciamo un romanzo sui generis, che si intitola Tutti romani, tutti romanisti, il romanzo di Cesar Gomez, scritto da Andrea Cardoni, pubblicato da Marcos y Marcos. Da romanista allora lo sai chi è Cesar Gomez. Allora, Cesar Gomez mi suggerisce un calciatore del passato di non grandissimo successo, però. Diciamo che era sfortunatello? Cioè ho un ricordo vago di uno che proprio non è che avesse giocato tantissimo. Dalle poche volte che ha giocato era stato strapagato, mm-hmm. Parliamo ancora di lire, 6 miliardi per 4 anni. Ha giocato pochissime volte e quando ha giocato ha perso, tra l'altro. Allora che cosa ha fatto questo Andrea Cardoni? Ha immaginato, in alcuni casi sono piccole testimonianze reali, in altri invece sono inventate, di parlare con un po' di persone comuni e non, e alcuni tifosi romanisti. E alla domanda, ma ti ricordi chi è Cesar Gomez? Tutto inizia da questo incontro. Lui incontra questo tifoso della Roma che gli racconta che un giorno era fuori dal campo di allenamento della squadra a Trigoria, aspettava che i giocatori uscissero appunto per firmare gli autografi, e quando vide appunto il difensore Cesar Gomez, una sola presenza in campionato ed era già da 2 anni con la Roma, gli disse in dialetto, in romanesco: a Cesar Gomez, se c'hai una penna te faccio io l'autografo. Beh, diamogli torto, però devo dire, sfortunatello, siamo tutti un po' Cesar Gomez, ma senza i milioni. Almeno lui ha incassato almeno qualcosa. Lui i soldini. Quindi insomma è un presi. Po' una parabola del, anche per prendere un po' in giro il calcio, dai, sorridiamo. Allora, ultimo consiglio al volo, come al solito, per ragazzi. Bambini, dai 9 anni in su, un libro bello, si intitola Il mistero della vita, come è stato che dal nulla è nato tutto. L'ha scritto l'olandese Jan Paul Schutten, è un libro illustrato pubblicato in Italia da L'Ippocampo Ragazzi. Insomma, che cosa si intende per vita, come hanno avuto origine le piante, come si fa a creare qualcosa di vivo da una serie di elementi che vivi non sono. Insomma, si spiega ai giovani lettori i misteri, si spiegano i misteri della vita e dell'evoluzione. Questo è stato un libro, tra l'altro, anche finalista al premio Andersen del 2017, che è il riconoscimento più importante in Italia per i libri per bambini e ragazzi. È illustrato, è bello, io lo regalerò al mio nipotino Luca, che è appassionato di scienza e appunto 10 anni e mezzo. 10 anni e mezzo, quindi età perfetta, da dai 9 in su, dai 9, 10 in su, prima se c'è l'accompagnamento dei genitori, per esempio da dove è cominciata la vita sulla Terra, perché morire può essere una saggia idea, insomma ci sono anche cose interessanti. Che cos'è la teoria dell'evoluzione, chi l'ha pensata? Lo vedo scritto con caratteri abbastanza piccini, quindi sì, diciamo insomma, dai 10 anni in su, dai 9, 10 anni in su, prima se c'è l'accompagnamento dei genitori. Esatto. Alessandra, ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri, ce l'abbiamo? 6:30 il sabato mattina, 22 in replica e poi sempre podcast. Scaricatevi tutti i podcast perché quest'estate vi terranno molta compagnia. Io ve lo dico, le passeggiate, i viaggi in macchina, le scampagnate, guardate che il podcast del cacciatore di libri è perfetto. Grazie. Dove Alessandra? Dove vai se il mio podcast non ce l'hai? Ciao! Il sabato del villaggio. Davvero, salvo solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. A meno che tu non sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento bene come un pugno quando ti vedo ballare, vorrei morire. E torniamo dunque a Modena Park, al grande, grandissimo concerto di Vasco Rossi. L'abbiamo detto, abbiamo preparato questa puntata anche pensando a questo straordinario evento di questa sera, che comunque seguiremo con Radio 24. Allora, abbiamo parlato della musica, abbiamo parlato di Vasco, abbiamo parlato di scaletta, di canzoni con Paolo Giordano, che è stato con noi all'inizio del Sabato del Villaggio, ma andiamo un po' a vedere come funziona la macchina. I più attenti avranno detto: ma non c'è in questa puntata Enrico Pagliarini che ci parla di tecnologie? Ebbene sì, perché Enrico Pagliarini è andato tra i pochissimi fortunati dietro le quinte del concerto di Vasco Rossi per capire appunto come funziona questa macchina, che secondo me è grandissima. Enrico Pagliarini, ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora, per una volta non sei collegato da un luogo misterioso, ma sappiamo che sei a Modena Park, sì, al Parco Ferrari di Modena. Sì, forse non ve l'aspettavate, però da un po' di tempo abbiamo inaugurato una tradizione 2024 e quindi di conseguenza io vado, cerco di andare. Quando c'è un grande evento, beh, oramai i grandi eventi dietro hanno anche tanta e tanta grande tecnologia. E allora io mi sono domandato questa settimana: ma che cosa ci sarà dietro ad un concerto storico, gigantesco, incredibile come quello di Vasco Rossi? E quindi sono qui. Allora, questa cosa crea sempre molto clamore, perché io so che quando tu chiedi il dietro le quinte di una grande partita di calcio, come hai fatto di un concerto, pensano tutti, insomma, no, non è una curiosità che hanno tanti, eppure è un mondo favoloso. Sì, sì, è decisamente incredibile, perché le infrastrutture che ci sono dietro questi concerti sono insomma veramente gigantesche. Allora, dirò subito che la cosa che fa più impressione è questo palco, che è alto una trentina di metri ed è lungo, largo 130 metri, un palco veramente gigantesco. E un'altra cosa che fa impressione di questo palco, a proposito di tecnologia, sono dei grandi, si dice, LED wall, quindi sono schermi LED che sono dei veri e propri muri alti, decine di metri, che si spostano, e quindi lo spettacolo di questa sera sarà bellissimo anche dal punto di vista scenografico, perché ci sono questi video LED che si muovono, cosa che è permessa proprio dalla tecnologia. Solo negli ultimi anni, con l'arrivo del LED, di questa tecnologia, si possono, sono tecnologie diverse da quelle che noi abbiamo nelle case con i TV LED, sono cose un po' diverse, però permettono di avere schermi molto leggeri e molto molto grandi. Questa è una delle prime cose che saltano all'occhio. Poi c'è ovviamente la parte audio, perché parliamo di un concerto e quindi l'audio deve essere all'altezza di questo evento. Ci sono, pensate, 29 torri, comprese poi anche quelle che ci sono nel parco centrale, però 29 punti di emissione e centinaia, stiamo parlando di circa 800 casse, noi le chiamiamo diffusori audio, quelli che teniamo in casa. Ovviamente queste sono tecnologie pensate proprio per i concerti, con tutta una serie di software che gestiscono questo audio. Allora, 29 torri, che cosa significa? Significa che il grande prato del Modena Park è cosparso da questi punti di diffusione del suono, e c'è un software molto sofisticato che serve per sincronizzare tutte queste torri. Perché? E qui adesso arriva la lezione di fisica, perché Enrico me l'ha dovuto spiegare e io l'ho capito. Allora, se non ci fosse questo software che sincronizza tutto, succederebbe che se tu ti trovi in fondo, pensate che quelli che sono le ultime file sono a circa 400 metri di distanza dal palco. Cioè vedono un puntino in fondo, se non ci fossero, sì, se non ci fossero gli schermi vedrebbero veramente un puntino in fondo. Esatto, esatto, ma dal punto di vista sonoro sentirebbero tutta una serie di ritardi, perché il suono non è veloce come la luce, e quindi se tu ti trovi in fondo sentiresti l'audio che ti arriva da magari dalla cassa che ti sta abbastanza vicino, ma sentiresti anche il ritardo di delle casse che invece sono più lontane da te. Quindi sarebbe una cosa che dà un fastidio pazzesco, insomma, una cosa molto fastidiosa. Invece c'è questa tecnologia che serve per ritardare il suono dei diffusori più lontani dal palco, e l'effetto finale è che c'è una unica onda sonora che invade questo palco. Il risultato è che tutti sentono allo stesso momento, anche se si trovano distanti dal palco. Quindi un audio, questa è una tecnologia che viene già usata, è da anni che viene utilizzata, però ovviamente qui stiamo parlando di una dimensione molto molto molto ampia, Ricordo sempre, giusto per avere un'idea delle dimensioni, che questo concerto segna il record mondiale di spettatori paganti, quindi sono stati pochissimi concerti di queste dimensioni, quindi qui viene utilizzato il massimo della tecnologia. Potenza, concludo, poi se vuoi rispondo a delle domande, ma comunque potenza installata dal punto di vista audio 750.000 watt. Se vogliamo utilizzare un paragone, facci capire nelle migliori condizioni. Allora, ho capito che è tanto, ma quanto? Come dici, scusa? No, ho capito che 750.000 watt sono tanti, ma facendo un paragone per farci capire quanto è? Ecco, infatti, nelle migliori condizioni, nei palazzetti dello sport per grandi concerti, possiamo arrivare a una roba tipo 50.000 watt. E qui invece siamo a 750.000 watt. A occhio e croce ci sono 15 volte tanto. Fate voi i calcoli e quindi capite bene che differenza c'è. Da quello che mi hanno raccontato i tecnici, oltre che la potenza sonora, anche la qualità dell'audio dovrebbe essere eccellente, quindi da ogni punto del Modena Park si dovrebbe sentire perfettamente. Impressione che fa il palco a te, che non mastichi tanto di concerti, ma mastichi tanto di tecnologia? Ma a bocca aperta. Sì, è veramente una cosa impressionante. Uno effettivamente, leggendo le specifiche, potrebbe dire: ma che cosa ci sta in 130 metri di palco? Poi uno lo vede ed effettivamente tra luci, video, fuochi d'artificio, perché tra l'altro ci sono anche i fuochi d'artificio, c'è spazio per una serie di... Devo dire che poi alla fine i musicisti e il cantante occupano una parte molto molto molto irrisoria di questo palco gigantesco, però lo spettacolo è garantito con questo impatto visivo, sonoro eccezionale. Mi hanno detto luci e laser che si vedranno oltre Modena. Sì, probabilmente. Io ovviamente non ho potuto vedere, non sono stato alle prove notturne, quindi non ho sperimentato, però le potenze che sono in ballo per questo evento sono tali per cui molto probabilmente anche da chilometri e chilometri di distanza si vedrà sicuramente qualche reverbero di luce, ma probabilmente si sentirà anche molto molto molto distante, perché la potenza sonora installata è assolutamente eccellente. Ti leggo una curiosità: la TIM ha potenziato la rete mobile incrementando la capacità di 10 volte. Sì, questo è per evitare uno dei problemi, viene fatto spesso per grandi eventi, ovviamente qui stiamo parlando di un grande evento particolare perché ci sono oltre 220.000 persone, sono i paganti, poi ci sono tutti quelli dei servizi, quindi parliamo, io direi che almeno 300.000 persone attorno a questo parco ci sono. Uno dei problemi è che sperimentiamo anche quando appunto siamo in eventi molto affollati, è che le reti si intasano se tutti utilizzano i telefonini, visto che per eventi di questo genere tra social network, messaggistica tra amici, eccetera, eccetera, le reti saranno sollecitate e messe a dura prova, questa è un'operazione che si fa e in questo caso è stata fatta da TIM in modo piuttosto importante e imponente. Teniamo conto che sulle reti mobili ci possono transitare anche una parte dei servizi di emergenza, poi in realtà i servizi di emergenza hanno tutta una rete dedicata, però in alcune condizioni, per alcuni tipi di servizi, possono essere utilizzate anche le reti di telefonia mobile. A questo proposito segnalano anche che ci saranno dei droni in volo dotati di videocamera HD che inviano immagini alla sicurezza. Sì, c'è tutto un fronte sicurezza che è fatto sia da questi droni, che sono una piccola parte del fronte sicurezza. Direi che dal punto di vista tecnologico probabilmente la cosa più interessante è che ci sono una serie di videocamere agli ingressi con tecnologia di riconoscimento facciale collegate con una centrale operativa della pubblica sicurezza, per cui delle forze dell'ordine, e in questo modo se dovesse arrivare, adesso io dubito che un pregiudicato o un malintenzionato che sia schedato venga ad un evento di questo genere, però in questo modo se esiste nel database, quindi è stato schedato in qualche modo una persona che volesse venire a questo concerto, la videocamera fa il riconoscimento e quindi trova una corrispondenza e viene segnalato. Speriamo non accada, ovviamente. Non so poi all'atto pratico, se uno entra in mezzo a altre decine di migliaia di persone, come poi si faccia ad andarlo a pescare in mezzo al pubblico. Però ovviamente se c'è una segnalazione poi le forze dell'ordine in qualche modo interverranno. Ultima domanda, Enrico, quanto ti sei divertito a curiosare dietro le quinte? Ah, moltissimo, starei rimasto ancora per molto tempo, però bisognava lasciare spazio ai preparativi e quindi io me ne sto andando. Grazie, grazie Enrico Pagliarini. Ti chiedo un ultimo consiglio: volessimo mica scaricare il super podcast di 2024, parlerai anche di questo? Hai parlato anche di questo? Sì, ho fatto una interessante intervista con Danilo Zuffi, che è il direttore di uno dei due direttori di produzione di Vasco Rossi, quindi uno dei due, diciamo, registi, vogliamo dire così, comunque responsabile di tutta questa macchina pazzesca, incredibile, e mi ha raccontato un po' di retroscena tecnologici. Grazie Enrico, quindi il super podcast di 2024, perché le altre trasmissioni di Radio 24, no, diciamo che le altre trasmissioni della radio italiana hanno dei podcast, e invece 2024 ha il super podcast, super podcast perché esatto, ha tutte le interviste in versione integrale. Insomma, come vado? Bene, grazie a tutti. Come ciao. Vado come sponsor? Ciao Enrico, a presto. Ciao. Allora, noi ringraziamo Enrico Pagliarini che è stato con noi e ci ha portato dietro le quinte di Modena Park. Ci ritroviamo ancora tra poco, dopo una breve pausa per il traffico, e parleremo ancora di musica con un personaggio che abbiamo incontrato per voi, con una novità, tutto questo tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. E ci troviamo insieme per l'ultimo blocco del sabato del villaggio, l'ultimo spicchio, ma poi saremo ancora insieme per un'ora con il nostro appuntamento con RadioTube. Vi avevo promesso un po' di musica nuova, è uscito ieri con il suo nuovo album. Lui non è un rapper italiano, è il rap italiano, lo canta nel suo nuovo album che si intitola Gentleman, perché lui insospettabilmente, con tutti quei tatuaggi e tutti i catenoni e gli orecchini d'oro da rapper, è davvero un gentleman. Ci siamo incontrati qualche giorno fa, ecco la nostra chiacchierata. Lui è Gue Pequeño. Cammino per strada, la gente mi dice t'apposto che lei è troppo bella per me che t'abbozzo. Gioco la sua data di nascita all'otto. Siamo sulla strada come le Pirelli, le gomme come le tracolle, i borselli. Flow pregio, prego per gli zanze, le stripper. Veleggio su un mare di odio, Dio skipper. Rime nella pellicola, mi sapevo Caligola, un imperatore come Avon. Chiedevo di chiamare con la debito, poi invece l'anno scorso ho speso mezzo palo. L'amore è solo una parola. Siamo tutti soldi e cattiveri. Mangio pesce, piscio brutti peri. Metto la tua tipa in business class Iberia. Noi facciamo tanto, t'apposto. Noi parliamo poco, t'apposto. Ho controllato il conto, t'apposto. Ho controllato il polso, t'apposto. In italiano. L'avevo proposto alla mia etichetta dei titoli che loro trovavano terrificanti, o meglio non tanto marketingabili, e poi tra questi titoli avevo anche Gentleman, un po' perché quando ho iniziato a lavorare il disco ho fatto tutti questi pezzi che avevano questa deriva tipo reggae, no? E quindi erano questi pezzi anche un po' playboy, se vuoi, non so come dirti. Poi abbiamo fatto questo concept, no, dell'album, che un po' vedi un po' romanzo criminale, però leggermente un po' gangster, gentiluomo, che ne so. Allora poi è venuta fuori questa cosa e l'abbiamo sposata, anche perché riprendeva lo stesso concetto ironico del disco mio più fortunato, che era Bravo Ragazzo. È un po' ironico, no? Però c'è un fondo di verità, dai. Ci sono un sacco di temi in questo disco che poi sono un po' temi tuoi e un po' temi del rap. E vorrei un po' capire, vorrei un po' orientarmi, tipo cartina, no? Quindi intanto amore e odio, che appaiono subito nella prima traccia. Sì. Ma tu ti senti amato o ti senti odiato? Guarda, io mi sento... Allora, andando avanti nella carriera mi sento più amato, il che non è per forza una bella cosa, perché più sei odiato più hai successo, però noi siamo stati mega odiati perché eravamo successo prima di altri e ostentavamo un'attitudine proprio da peggiori. Parlavamo di soldi quando nessuno poteva parlare di soldi. Adesso in questa nuova ondata di ragazzini tutti parlano di soldi, tutti li ostentano. Poi soprattutto c'è con i vari avventi di vari Fedez, così insomma c'è gente che poi ha ostentato di più e si è fatto odiare anche di più. E in più ho anche penso di essere al massimo grado di gradimento nel senso fisico della parola, quindi tra la gente di strada, tra la gente quando vado a suonare nei club, capisci, quando vado in giro vedo proprio un grande amore della gente, che poi non è per forza direttamente proporzionale magari a quello che c'è su internet, non so come dire, però nonostante tutto è un bel momento, ti dico. Hai parlato di giovani che ti piacciono, però in un tuo pezzo li prendi anche un po' in giro, prendi un po' in giro alcuni di loro, che se gli togli YouTube, se gli togli l'autotune, sì, quello ti spiego, quello è la cifra stilistica del rap, no? Cioè la competizione, il genere, no? Che è una sfida, no? Quindi ovvio che tu nel genere, a dipendenza che artista sei, puoi fare un pezzo poetico, un pezzo in cui stai entrando in discoteca perché tu sei meglio degli altri rapper, perché l'hip hop è un genere che porta a fare una vita migliore per guadagnando e a migliorarsi e a essere migliore dell'altro, quindi è come uno sport, è una cosa molto sana. Parliamo di femmine, parliamo d'amore. Guersace è una bella affermazione, cioè essere per una donna come un vestito su misura. Capito, metafora? Mamma mia, io l'ho trovata pazzesca, perché i rapper fanno dei grandi pezzi d'amore, anche se ogni tanto con le donne sono un po' misogini. Dov'è la verità del rapporto con le donne? Guarda, la verità di questo pezzo è che allora, io avevo già l'idea, perché avevo l'idea di Guersace, ma non è che ci vuole una laurea, perché praticamente nel corso degli anni io ho sempre fatto dei wordplay, dei giochi di parole col mio nome, no? Quindi cioè, non so, c'era Trezeguet, c'era Guerriglia, cioè capisci, tu potevi mettere Gue in ogni contesto, in ogni sillaba, e quindi tra le varie cose c'era anche Guersace, no? Ma è una minchiata, però... No, ma guarda, io invece mi piaceva da morire, quindi per me è tutta anche una roba poetica. È uno dei miei preferiti del disco. Ultima cosa, è difficilissimo parlare di denaro in generale, e nei testi tuoi si trovano tanti aspetti che riguardano il denaro. Che cosa conta il denaro per te? Ma guarda, è un argomento molto strano, perché per un sacco di tempo c'è stato questo fatto che noi, no, dicevamo, beh, allora sì, in Italia si critica chi fa i soldi, no, si critica chi ce l'ha fatta, bla bla. Ti dico, adesso tendenzialmente io sono, ti dico, ben felice di essere fuori da questo ruolo, perché fino a un po' di tempo fa, cioè a parte me, artisti che hanno fatto anche più soldi di me, ma che non era la loro cifra stilistica dirlo, tipo Fibra per esempio, no? Non ha mai visto Fibra, ho sempre visto un orologio pacco a Fibra, mai visto un bello orologio, no? Cioè c'ero io, c'erano, chi cazzo c'era, un po' mischia qualcuno che un po', no? E potevi un po' dire, fare anche, no? La gente che pensava, adesso poi è arrivato Fedez a fare il miliardario con l'attico, quindi lui ha iniziato a dire che loro hanno iniziato a dire l'invidia sociale, quindi ben venga che lo facciano loro, capito? Questi ragazzini nuovi che ormai gli danno gli stessi soldi, la discografica mia gli pensa, gli dà gli stessi soldi che gli danno a me, a questi qua di 20 anni, quindi io, anzi, che meglio che piano piano, disco dopo disco, finché arriverà l'ultimo disco che avrò sei il saio, capito? Avrà venduto tutti gli orologi e andrò come Caparezza, magari vado con Caparezza, Giovanotti e Michael Franti con la bici, andiamo a fare un bel pellegrinaggio, sai, con i Birkenstock, e finalmente ritrovi la luce dopo tanto... Ma i bambini negli asili che fanno i selfie mossi alla web pequeño adesso? Che effetto ti ha fatto tutta quella roba lì? Allora, ti spiego, quella roba lì mi ha fatto questo effetto, che noi stavamo andando a suonare a Napoli e tu, chi mi conosce sa che io non ho mai negato una foto a nessuno, mai. A un certo punto, ecco, non ti nascondo che ancora adesso, io purtroppo il mondo di YouTube, cioè io non lo capisco, ma proprio perché non lo capisco. Quindi io non conosco nessuno, mi hanno chiesto una foto. Sì, ma sai chi siamo? Noi siamo Matt e Biz. Faccio, boh, ho pensato, erano due rap. Faccio, sì, no, ciao, me ne sono andato. Quando siamo andati sul treno, stiamo perdendo il treno. Quando siamo andati sul treno, abbiamo guardato sui social la menzione, perché ti menziona, abbiamo detto, ma sai che quei due pirla lì del coso sono due sfigati YouTube che hanno 1.000.000+ di follower, e i tipi avevano fatto un post dal nulla dicendo, ah, adesso io che delusione, butterò tutti i suoi CD. Quindi c'è stata prima questa gogna mediatica, dopodiché questo Rovazzi ha fatto questa canzone, e la canzone comunque, ti dico, ha passato l'estate comunque, in cui arrivavano anche dei bambini iper piccoli di 6 anni, dicevo, ma scusi, lei è quella della canzone, capito? E quindi ti dirò, ma ha fatto comunque anche una mezza pubblicità. Secondo me anche va bene questa te lì, dopo un po' basta, cioè adesso ancora ogni tanto c'è qualche strascico e dici basta, ecco. Mi fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi. E mi preoccupo solo quando non ci sei tu. Dovrai settare un parametro diverso nell'antenna del mio universo quando non ci sei tu. E questo era Gue Pequeño, questo era Gentleman, il suo nuovo album appena uscito, fresco fresco, adesso il giornale radio delle 17 e poi saremo ancora insieme con la terza ora del Sabato del Villaggio, che poi è quella di RadioTube.